Bella ciao a tutti da parte mia, sono qua in Piazza Corvetto, esattamente a circa 20 metri dove c'è lo sbarramento delle forze dell'ordine, poco prima di Piazza Marsala, che è quella nella quale ci dovrebbe essere il comizio. Ecco, intanto ti chiederei se ci puoi fare un po' una panoramica di com'è la piazza, quindi a livello di partecipazione, se si sta muovendo, se si sta anche per formare un corteo, se vedi qualche cartello, qualche bandiera. Allora, mi state chiamando proprio nel momento che sta muovendo il corteo dall'inizio di via Roma, ha preso pienamente possesso di tutta Piazza Corvetto e i due striscioni principali sono Genova antifascista e Genova sempre presente e partigiana, e umana e partigiana. E ci saranno almeno 2000 persone dietro a questi due striscioni, perché i due presidi si sono uniti, quindi anche quelli che erano in prefettura stanno venendo verso Piazza Corvetto e penso che ci siano almeno 2000 persone in questo momento. Perfetto, prima sentivamo anche Marco Preve che ci diceva che si è costituita proprio una zona rossa praticamente intorno a Piazza Marsala. Sì, qua sembra, ho parlato con i genovesi, dicono che una cosa del genere l'avevamo vista solo al G8. Ci saranno penso non meno di 50-60 camionette della polizia, dei carabinieri, della Guardia di Finanza. Ogni accesso a questa Piazza Marsala è presidiato da mezzi blindati con gli alari, ci sono anche i mezzi con gli idranti sopra e poi, siccome è una zona nevralgica di Genova, ci sarebbero almeno 4-5 accessi intorno, quindi ogni accesso è militarizzato completamente. Capito. La cosa brutta che ho visto è che c'è del feeling tra questi fascisti sembrano ben voluti. E la cosa non fa tanto piacere. Diciamo da quel lato delle barricate in qualche modo, perché poi immagino che lo spettacolo di Piazza Corvetto invece sia molto diverso da questo punto di vista. Ti chiederei, non so se tu hai avuto occasione di sentire un po' se si è parlato anche della possibilità di provare a entrare in Piazza Corvetto, se invece quali saranno le modalità, diciamo, di corteo. Allora, per il momento c'è stato uno spostamento di tutta la gente che ha guadagnato un centinaio di metri. Adesso sono a 60 metri da quella che è definita la zona rossa. In questo momento hanno posato gli striscioni per terra, tutti i manifestanti sono compatti dietro questi due striscioni, ma mi immagino che da qua a qualche minuto ci sarà un tentativo di andare verso Piazza Marsala e le vie attigue, una sorta di accerchiamento dei fascisti. Certo, bene. E nel frattempo mi dicevi si sta unendo anche l'altro presidio, perché appunto di presidi originariamente, diciamo, in qualche modo ce n'erano due, quello chiamato proprio per Piazza Corvetto e quello invece chiamato la CGL, Ampi, Arci e altre associazioni di fronte alla prefettura. Sì, ce n'era uno davanti alla prefettura, uno in Piazza Corvetto a distanza di neanche 100 metri, adesso il corteo è unico con presenza di antifascisti a tutta la Liguria. È una cosa carina, c'è anche qualcuno che ha portato delle chitarre e in un angolo della piazza pochi minuti fa si suonava e si cantava De André. Quindi anche con il sorriso, anche con una partecipazione positiva si sta facendo questa manifestazione determinata antifascista, ma col sorriso. Benissimo, senti, nell'appello che si faceva, nell'appello che ha chiamato proprio Genova antifascista alla piazza, c'era un riferimento anche al sindaco, ne parlavamo un pochino prima anche con Marco Preve, nel senso che si è rifiutato di prendere qualsiasi posizione. Bucci, a mio parere, è chiaramente vergognoso, perché fa l'occhiolino a certe frange per tramite del suo assessore, che è anche andato con la fascia tricolore alla commemorazione di certi fasci, quindi non è una novità che ci sia corra buon sangue tra l'amministrazione Bucci e questi fasci qua. E lui aveva avuto l'occasione comunque di fare un intervento, se ne è lavato le mani, ha fatto come Ponzio Pilato, ma non è la prima volta che succede. Comunque lo stesso Bucci poi partecipa alle ricorrenze partigiane, alle celebrazioni del 25 aprile, cambia abito a seconda delle circostanze. Certo, va bene Italo, guarda, io ti ringrazio e per ora ti saluto, magari ci risentiamo se riusciamo subito prima della fine del programma, verso le 6:05, per un veloce aggiornamento, per sapere se nel frattempo si è mossa un po' la situazione. Io intanto ti ringrazio, ci salutiamo sulle note di Genova per noi, ti ringrazio e ti saluto. Bella, ciao a tutti e grazie a voi, ciao. Ciao, grazie.